sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Riprendono a circolare i treni verso la Francia. L'Europa dà ragione a Parigi. Rispetto alla Camera, il presidente della NM, Palamara, scherza. Ecco il patto. Parmalat attesa per la sentenza nel processo contro le banche. Giudice in camera di consiglio. Calcio, volata scudetto senza pato per il Milan. Il calciatore fermo per 3 settimane. Ancora una buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati, aspettando dunque il vertice italo-francese tra Roma e Parigi, ancora scontro sull'immigrazione, questa mattina hanno ripreso a circolare i treni tra Italia e Francia, ma intanto è intervenuta l'Unione Europea e domani ci sarà un vertice, ma senza Parigi. Cominciamo da qui, allora cominciamo a capire che succede, Andrea Viali. Sì Anna, oggi su quanto accaduto a Ventimiglia trapela, come dicevi, un primo giudizio della Commissione Europea che ha dato in sostanza ragione alla Francia, ricordando che il trattato di Schengen può essere sospeso per ragioni di ordine pubblico. Bruxelles ha anche fatto sapere che al momento sulla questione non è arrivato nessun reclamo da parte dell'Italia. Dopo le proteste della Farnesina ieri, intanto oggi sulla questione è comunque tornato il nostro ministro dell'Interno, Maroni. Ha voluto smorzare il tono delle polemiche, ha spiegato che a Ventimiglia la situazione oggi è tornata alla normalità e che il blocco dei treni di ieri in effetti era dovuto proprio alla manifestazione dei centri sociali, non quindi al passaggio dei migranti tunisini. Maroni ha poi auspicato che nell'incontro del 26 aprile fra Sarkozy e Berlusconi si possano risolvere amichevolmente questioni che, ha detto, non ha senso che continuino a permanere. Dichiarazioni distensive arrivano stamattina anche dal ministro dell'Interno francese, che ha dichiarato che Parigi non desidera avere tensioni con Roma sulla questione degli immigrati tunisini, appunto. Si tenta quindi di ricucire lo strappo, anche se Francia e Spagna domani non saranno presenti alla riunione ministeriale sull'immigrazione che è in programma a Cipro, vertice al quale parteciperanno soltanto Italia, Grecia, Cipro e Malta. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viale. Alle 13.30 con Italia in controluce, vi ricordo, parleremo ancora di tunisini in Italia. Ma per il momento restiamo ancora al rapporti con la Francia. Sentivate, sono dichiarazioni di distensione quelle che sembrano arrivare questa mattina dal governo di Parigi, ma intanto ieri i treni sono stati fermati a Ventimiglia. Allora, che succede? Braccio di ferro si va verso la distensione. Torniamo a Parigi, lo chiediamo a Marco Moussanet. Buongiorno a tutti, ma io non credo che ci sia alcuna distensione da parte di Parigi, cioè non bisogna leggere le parole per quello che sono. Il ministro dell'interno francese Guéant, è vero, ha detto di non desiderare che ci siano tensioni fra Italia e Francia, ma ha ribadito la posizione molto netta della Francia. Se gli immigrati che si presentano alla frontiera francese o comunque che desiderano entrare in territorio francese non rispondono alle esigenze, ai vincoli che sono stati fissati dal Ministero, non entrano in Francia. Su questo non c'è alcun dubbio, e Guéant ha anche ribadito molto nettamente questa mattina che gli accordi europei prevedono che qualora si tratti di immigrazione, come dire, per ragioni economiche e non per ragioni di rifugiati politici, il paese che deve gestire l'immigrazione d'arrivo è il primo paese dell'area Schengen dove questi immigrati arrivano, quindi l'Italia. Quindi secondo te è possibile che venga ancora bloccato l'ingresso o per il momento ci fermiamo qui, è stata una mossa di ieri e basta? Beh, ieri c'erano sicuramente delle situazioni contingenti, tra l'altro sui due versanti, perché se non sbaglio anche sul fronte italiano a Ventimiglia c'è stata un'esibizione di forza da parte della polizia italiana. Poi ieri c'era un episodio specifico che ha consentito alla Francia di mostrare i muscoli. E se sarà il caso si ripeterà. La Francia ha a disposizione uno strumento ampiamente discrezionale, che è quello delle risorse finanziarie. Cioè il regolamento francese prevede che la polizia possa intercettare il migrante e chiedergli quanto tempo intende trascorrere in Francia. Sulla base di questa risposta ha il diritto di verificare se il migrante è in possesso della cifra sufficiente, e cioè 31 euro al giorno qualora abbia qualcuno che lo ospita, ma deve essere in grado di dimostrare di averlo, o 62 euro al giorno nel caso in cui non abbia qualcuno che può ospitarlo. E quindi queste regole verranno applicate in modo, come abbiamo sempre detto, molto stretto. Grazie a Marco Moussanet da Parigi. Naturalmente ci risentiremo ancora nei prossimi giorni, però a questo punto sentiamo allora cosa è successo invece questa mattina a Ventimiglia. Paolo Piacenza. Sì, questa mattina i treni a Ventimiglia hanno ripreso regolarmente a circolare, quindi si conferma sostanzialmente che il blocco deciso ieri dalla Francia era legato alla manifestazione di sostegno agli immigrati che si è avuta domenica. Alla stazione di Ventimiglia ora ci sono una trentina di tunisini che aspettano chi il treno, chi l'arrivo di parenti per essere venuto a prendere. Non si hanno finora notizie di respingimenti, quindi la Francia per ora non sta rimandando i tunisini indietro. Si sa che questa notte alla stazione di Ventimiglia hanno dormito in una quarantina nel centro di accoglienza in 150 ed è tutto. Grazie a Paolo Piacenza. Voltiamo pagina, ma restiamo al fronte immigrazione. È tornata in classe questa mattina la ragazza pakistana che era stata tenuta a casa dai familiari. A tracolla una cartella blu, uguale a tutte le sue compagne di classe. Diverso invece il vestito, un velo bianco, candido, ricamato, che lei usa per nascondere anche il viso. Quel viso troppo bello per i fratelli che avevano deciso che basta, stop, Jamila, 19 anni, non poteva più andare a scuola. Troppi gli sguardi indiscreti dei compagni che si posavano su di lei. In effetti da quel velo saltano fuori due occhi neri, grandi, incorniciati da due sopracciglia ben disegnate. Sorride Jamila mentre entra a scuola, ma fa impressione vederla camminare per le scale del suo istituto, l'Istituto Professionale di Brescia, scortata dal console pakistano e da una rappresentante sindacale della CGIL. Su questa vicenda c'è stata troppa enfasi, ha detto il console. Si tratta di un caso che non ha nulla a che fare con quello di Ina, la ragazza uccisa dai familiari perché voleva vivere all'occidentale. Qui si tratta di una storia di povertà ed ignoranza. Il padre della ragazza è morto infatti in un incidente sul lavoro, ma i familiari non riescono ad ottenere alcun risarcimento. Il rischio è che perdano la casa, così Jamila è stata promessa sposa ad un cugino benestante in patria. È così brutto essere pakistane e non poter decidere del proprio futuro, chi amare, aveva scritto Jamila ad uno dei suoi prof prima di sparire nel nulla. Da oggi Jamila potrà almeno decidere se diplomarsi. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizia dell'ultima ora, un proiettile con molta probabilità di pistola è stato rinvenuto sulle scale degli uffici della Procura Generale di Reggio Calabria. Il proiettile notato dalla scorta del Procuratore Generale Salvatore Di Landro, che ha subito lanciato l'allarme, è stato consegnato ora alla squadra mobile di Reggio Calabria, che ha avviato le indagini. Siamo alla politica, lo scontro ancora sulla giustizia dopo le parole del Premier nel fine settimana, e questa mattina i magistrati hanno incontrato il presidente della Camera Fini, Elisabetta Fiorito. Archiviato il processo breve alla Camera, il presidente di Montecitorio Gianfranco Fini incontra i vertici della NM. Il rispetto reciproco tra le istituzioni è la premessa indispensabile per la salvaguardia dello Stato di diritto e per una leale collaborazione tra i poteri dello Stato, spiega Fini al termine. E il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, critica le riforme proposte dal governo. Sentiamo Palamara. Ci sono due situazioni che oggi evidentemente rischiano di aumentare i nostri motivi di preoccupazione, e sono da un lato le prossime elezioni amministrative e dall'altro le vicende giudiziarie in corso che riguardano il Premier. Sotto il primo versante, ovviamente, è chiaro il tentativo di portarci sul terreno di scontro, di farci diventare soggetto politico, e lì la nostra risposta è chiara, diciamo di no a questo tentativo con forza. Sull'altro non possiamo che evidenziare che le riforme in corso, quelle con leggi ordinarie, proprio per questi motivi rischiano di essere riforme disomogenee, dettate da situazioni contingenti, e quindi come tali, anziché andare nel senso del miglioramento del servizio giustizia, rischiano ulteriormente di affossarlo. Scherza poi Palamara, con Fini abbiamo siglato il patto, riferendosi alle accuse lanciate dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sul presunto complotto tra Fini e le toghe. E di questo parla anche il Ministro Gianfranco Rotondi, sentiamo. Veda, io penso che questa curiosità sarà soddisfatta presto, cioè farà il nome, ma non dal Presidente Berlusconi. Il Presidente Berlusconi si riferisce a una circostanza che per una serie di ragioni sarà molto presto pubblica. Penso che egli abbia appreso da una fonte diretta una cosa che questa fonte diretta ha intenzione di illustrare nel momento in cui separerà il suo ruolo dalla situazione nella quale ha preso queste cose. Naturalmente un Presidente del Consiglio, peraltro dell'esperienza di Silvio Berlusconi, non si sbilanciava a dire queste cose a fronte di un pettegolezzo, di una sciocchezza riferita. Naturalmente si tratta di una fonte autorevole, eminente, che probabilmente troverà anche l'occasione per dire liberamente queste cose quando magari deciderà di farlo in circostanze che ha già deciso. E avete sentito ovviamente Rotondi al microfono di Alessandro Milan. Poi ricordiamo lo scontro al Senato sul processo breve. L'opposizione chiede di esaminare prima i provvedimenti sulla corruzione e sulla mafia, mentre la maggioranza vorrebbe calendarizzare il provvedimento subito dopo Pasqua. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Ricordiamo anche che tra un mese ci sarà il voto per le amministrative. Noi ne parliamo tra poco. Ora invece andiamo in tribunale a Milano, perché sono in camera di consiglio i giudici della seconda sezione penale per il processo cosiddetto Parmalat bis, quello nel quale sono imputate quattro banche. Tra pochissimo dovrebbe arrivare la sentenza. Raffaella Calandra. Sì, 8 anni dopo il crack è attesa la sentenza anche per le banche, come dicevate, dopo la condanna già dell'ex patron della Parmalat, sia per aggiotaggio che per bancarotta fraudolenta. Tra circa un quarto d'ora, grosso modo, i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano pronunceranno il verdetto anche per quattro banche estere e per i loro funzionari nel filone per aggiotaggio, il reato cioè che punisce la diffusione di notizie che alterano ad hoc l'andamento del mercato. In totale il PM Eugenio Fusco ha chiesto confische per 120 milioni di euro per Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley e Deutsche Bank, imputate per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese. E inoltre la Procura ha chiesto multe per 3,6 milioni e pene per 1 anno e 4 mesi per 5 dei 6 manager a processo per aggiotaggio. Per il crack da 14 miliardi del gruppo di Collecchio sono oltre 40.000, ricordiamolo, gli ex risparmiatori Parmalat danneggiati e qui costituiti parte civile. Vi racconteremo a breve quale sarà il verdetto dei giudici. Grazie Raffaella Calandra, naturalmente ve lo daremo appena ci sarà. Ora invece andiamo all'estero. Dall'inizio del conflitto in Libia a Misurata si sono registrati almeno 1.000 morti e 3.000 feriti. Lo si è appreso questa mattina da fonti dell'ospedale della città, diventato uno dei simboli della resistenza a Gheddafi. L'80% dei morti sono civili, ha detto il direttore dell'ospedale. E questa mattina c'è stato invece un attentato in Afghanistan, un kamikaze si è fatto saltare all'interno del Ministero della Difesa a Kabul. I talebani hanno sostenuto che obiettivo dell'attacco era il ministro francese della Difesa, che era in visita. Aveva scelto per le sue battaglie la striscia di Gaza e a Gaza è il giorno dell'ultimo addio al volontario italiano Vittorio Arrigoni. È tutto pronto nella striscia di Gaza per l'addio a Vittorio Arrigoni, il volontario italiano ucciso da una cellula salafita dopo essere stato sequestrato. Il convoglio funebre con la salma del 36enne ha da poco lasciato l'ospedale Shifa di Gaza, davanti al quale si sono radunate oltre un centinaio di persone che hanno gridato «Non siamo terroristi! Via i terroristi dalla Palestina! Onore a Vittorio, combattente della libertà! La Palestina non ti dimentica!» La salma di Arrigoni da Gaza verrà poi portata fino al valico di Rafah per essere trasferita in Egitto, evitando così, su richiesta della famiglia, di passare per Israele. Dall'Egitto infine il trasporto in Italia. Al valico saranno 2 gli elogi funebri, uno in arabo e uno in italiano, letto da un ministro dell'esecutivo di Hamas. Nel frattempo, per il rapimento e l'uccisione di Arrigoni, le foto di 3 ricercati, 2 palestinesi e un giordano, sono state diffuse online dal governo di Hamas, che ha annunciato anche una taglia dal valore al momento imprecisato. I 3 ricercati sono ritenuti pericolosi criminali e per facilitarne la cattura è stata disposta la chiusura di tutti i valichi di frontiera con Gaza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra poco verso il voto per le amministrative, subito dopo il traffico. Le 13:17 minuti, le notizie di oggi di GR24, riprendono a circolare i treni verso la Francia, l'Europa dà ragione a Parigi, rispettate le regole. Fini riceve alla Camera il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Palamara, sono pilastro di legalità, dice Fini alle toghe. Parmalat attesa per la sentenza nel processo contro le banche, giudici in Camera di Consiglio. Ma c'è un altro processo che ormai ha le battute conclusive, la condanna di tutti e 5 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo e una multa di 800.000 euro per la Saras. Sono le richieste arrivate proprio pochi istanti fa dal pubblico ministero al processo per la morte di 3 operai nella raffineria di Sarroch il 26 maggio del 2009. Il magistrato ha parlato per più di 3 ore sollecitando 2 anni e 8 mesi per il direttore della raffineria, il direttore delle operazioni ragioni industriali, 2 anni e 4 mesi le richieste di condanna per il responsabile dello stabilimento, 2 anni e mezzo per il responsabile dell'area dove morirono i 3 operai, 1 anno per il rappresentante della ditta di cui erano dipendenti. Ma è stata chiamata in causa anche la Saras con Gianmarco Moratti in base alla nuova legge sulla responsabilità amministrative delle aziende in presenza di incidenti. Il pubblico ministero in questo caso ha chiesto una multa di 800.000 euro. E noi riprendiamo ora dalle città italiane, dove il 15 e 16 maggio si andrà al voto per il rinnovo dei sindaci. Ci sono sfide importanti, tra le quali Milano, dove i toni sono molto duri in queste ore. Allora, per fare il punto, saluto Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Si è chiuso sabato sera il tempo utile per la presentazione delle liste elettorali per la tornata amministrativa del 15 e 16 maggio. Il test coinvolgerà 9 province e 1.178 comuni, tra cui anche municipi metropolitani. Tra le città con più di 100.000 abitanti ci sono Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, Ravenna, Cagliari, Rimini, Salerno, Latina e Novara. La campagna elettorale sembra essere decisamente già nel piano nel capoluogo lombardo, che vede la sfida tra il sindaco uscente Letizia Moratti e il candidato del centro-sinistra Giuliano Pisapia. A lanciare la volata ieri alla Moratti è stato lo stesso Berlusconi. A Milano, come nelle altre città, ha dichiarato il premier, le amministrative saranno un test nazionale per il governo. A Milano, tra l'altro, è ancora viva la polemica sui manifesti contro i PM equiparati alle Brigate Rosse. Autore Roberto Lassini, candidato nelle liste del PDL. Lassini ha riconosciuto di aver usato un'espressione forte, ma ha confermato la sua candidatura, al contrario di quanto anticipato dalla stessa Moratti. La vicenda manifesti resta comunque in primo piano. Sentiamo su questo Luca Tarantelli, dell'Associazione Familiari Vittime del Terrorismo. Secondo me soffiare sul fuoco in questa maniera non è una cosa molto intelligente, no? Visto anche quello che è successo in passato, no? Quindi io penso che questa persona dovrebbe sinceramente pentirsi di quello che ha detto. Non è tollerabile che in uno Stato democratico, in cui dovrebbe vigere il principio di tolleranza e di rispetto reciproco, si inaugurino questi tipi di campagne e si usino questi tipi di linguaggi, che non sono linguaggi tipici di una persona democratica, ma sono i linguaggi che usa chi non è democratico, no? Perché sotto una forma o sotto l'altra, sia Stalin che Mussolini, secondo me, in un modo o nell'altro, hanno usato dei linguaggi abbastanza simili, e dei linguaggi abbastanza simili li usavano forse proprio chi negli anni 70 faceva parte dei movimenti terroristi o era contiguo in qualche modo ai movimenti terroristi. Quindi ripetere le stesse modalità di linguaggio e lo stesso stile politico non mi sembra una cosa intelligente. Quindi io spero che questo signore rientri nei ranghi. E grazie a Vincenzo Miglietta. In Europa, nel fine settimana si è votato in Finlandia per le elezioni politiche. Qui il malcontento per l'immigrazione è stata una delle ragioni alle base dell'exploit dell'estrema destra. Il partito populista nazionalista ed euroscettico di Veri finlandesi è balzato al terzo posto. Secondo i timori di molti analisti, è ora un'ipoteca sulla politica europea di Helsinki e anche sul salvataggio finanziario del Portogallo. Un risultato a sorpresa? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto al giornalista finlandese Pertti Leppi, visto corrispondente dall'Italia per diverse testate finlandesi. Non a sorpresa, perché erano avanti già anche i sondaggi, però storicamente questo è un vero, vero scossone, perché ultimamente solamente 40 anni fa un partito ha avanzato così tanto nelle elezioni parlamentari. Alla base del successo vengono citati il malcontento per l'immigrazione e le conseguenze della crisi economica. E il motto di questi veri finlandesi, come si chiamano, è Finlandia ai finlandesi. Quindi sicuramente è un partito populista, come il suo leader Timo Soini, un personaggio populista pittoresco. Quindi ha giocato su questi elementi, la frustrazione in qualche maniera i finlandesi verso l'Europa. Noi stiamo bene perché dobbiamo pagare per gli errori economici degli altri. Torniamo alla cronaca. È stata depositata questa mattina la perizia per il processo alle maestre dell'asilo nido Chip e Chop di Pistoia. Ricorderete, sono accusate di violenza sui piccoli che lo frequentavano e tutti i 18 bambini esaminati sono stati riscontrati sintomi post-traumatici da stress. 15 bambini su 18 lesioni psichiche giudicate gravi. Gli italiani non sembrano propensi a spostarsi da casa per le festività pasquali come avveniva in passato. La prossima domenica sarà occasione di un viaggio vero e proprio di vacanza solo per il 7,3% circa degli italiani, secondo un'indagine della FIPE Confcommercio. Chi si sposterà per il 90% rimarrà in Italia. Quello che non cala sono le spese per i giochi, scrive intanto oggi il Sole 24 Ore del lunedì. Cresce la passione per il gioco e divora una buona fetta della spesa destinata ai consumi. Nel 2010 scommesse, lotterie e simili hanno attirato risorse per oltre 61 miliardi di euro, pari al 7% della spesa degli italiani. Ma non solo, mentre l'azzardo pubblico è cresciuto del 13%, i consumi degli italiani sono rimasti praticamente fermi. A fare la parte del leone sono tutte quelle tipologie di giochi a bassa soglia, come le slot machine o i gratta e vinci, che hanno una diffusione capillare, richiedono un bassissimo investimento e garantiscono una maggiore frequenza di piccole vincite, tutte caratteristiche che invogliano meccanicamente a ritentare. Ma le micro restituzioni della dea bendata non bastano per concedersi acquisti di beni significativi e finiscono per rientrare nella ruota della fortuna, senza grandi vantaggi per l'erario. Dato l'inferiore prelievo sui giochi che piacciono di più, dal 2004 a oggi il fisco ha visto dimezzarsi la percentuale incassata sulle somme giocate. Rossella Cadeo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sushi, filetti di trota, pasta e piselli con seppie, una cena di solidarietà cucinata dai migliori chef giapponesi in Italia per esprimere vicinanza al paese colpito dal terremoto e dallo tsunami. Ieri sera, tra i presenti anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno, lo ha intervistato Elisabetta Fiorito. Dobbiamo fare in modo di avere sempre presente la situazione drammatica in cui oggi si trova il Giappone e bisogna essere vicini con una forte solidarietà per aiutarlo a uscire da questa condizione. Roma ha subito lanciato una campagna di solidarietà intitolata Coraggio Giappone, che ha avuto una grande risonanza. Si è diffusa un pochino una psicosi sul sushi, il nostro sushi è sicuro? Beh, certamente sì, il sushi che viene fatto qua è un sushi credo fatto con prodotti diciamo locali e nazionali, comunque in ogni caso bisogna evitare ogni forma di psicosi, ci sono controlli alimentari molto intensi anche in Giappone, quindi da questo punto di vista, e magari questo sì, facciamo un'attenta riflessione noi sul nucleare in Italia, io credo che sia necessario fare una moratoria dopo quello che è successo e fare una profonda riconsiderazione. Quindi lei è favorevole a questo stop del governo sul nucleare? Assolutamente sì, credo che sia indispensabile anche per evitare di svolgere un referendum su una piena puramente emozionale. Facciamo una riflessione attenta e poi confrontiamoci in sede politica se sia il caso o meno di andare avanti con questo programma. Fermo restando che io sono sempre stato molto scettico sul programma nucleare. Cioè contrario? Contrario. E noi siamo invece ora al calcio, il Milan verso la volata scudetto dopo il fine settimana. Sarà davvero così? Saluto Dario Ceccarelli. Direi di sì, Anna, anche se i milanisti toccheranno subito ferro. Lo scivolone del Napoli e prima quello dell'Inter spiana la strada allo squadrone di Allegri, al quale tutto va bene, anche le disgrazie. Adesso, la notizia è di poco fa, per Pato c'è uno stop di 2-3 settimane per uno stiramento ai flessori della coscia destra accusato durante la partita con la Samp. Quindi, dopo Ibrahimovic, salta anche il bomber brasiliano, che ai box comunque potrà essere consolato dalla figlia del presidente. Eppure, nonostante questi handicap, il Milan direi che va a gonfie vele. Oltre alla migliore difesa, strappa anche all'Inter la soddisfazione per il miglior attacco, 59 gol. Poi c'è quella calma dei forti, quella cosa che ti viene quando le cose girano bene e i giocatori più affidabili come Seedorf danno tranquillità a tutta la squadra. Che dire, nel calcio mai dire mai, e quindi, come dicevano i vecchi cronisti, calma e gesso. Ma il gesso al campionato mi sembra l'abbia messo il Milan. Quanto all'Inter, per capirci qualcosa, bisognerebbe farle un'attacca al cervello. Se non lo perde completamente, può anche vincere ancora la Coppa Italia e conquistare un posto per la Champions. Meglio che niente. Come quella vecchia canzone, non sempre si può vincere. Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere come vuoi e quando vuoi. A te, Anna. Grazie Dario Ceccarelli, naturalmente alle 14 vi ricordo ancora Gigi Garanzini, vi ricordo anche che è attesa breve la sentenza del cosiddetto processo Parmalat bis in cui sono imputate 4 banche, ve ne daremo conto appena ci sarà la sentenza. Ora vi lascio a Italia in Controluce, in regia Filippo Aureggi, Danna Migliorati, ancora una buona giornata. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.